L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. C'è la par condicio e naturalmente cercheremo di applicarla alla lettera, però questo per fortuna non ci obbliga ad escludere dalla discussione, dai temi di oggi, una serie di fatti che sono davvero clamorosi dell'ultima settimana, quella che per noi dell'ottavo giorno è cominciata sabato scorso 27 febbraio e si è conclusa ieri venerdì 5 marzo. Sto parlando di fatti che sono davvero incredibili, direi senza precedenti, per qualcuno addirittura sono addirittura inauditi, che sono caratterizzanti proprio di questa settimana politica, proprio mentre la politica taglia il nastro dell'ultimo decisivo mese di campagna elettorale. E allora cominciamo dal pasticcio, per usare le parole di Napolitano, delle liste elettorali, una storia che si è poi imbrigliata per tutta la settimana. Tra l'altro dai GR di questa mattina potete anche ascoltare gli ultimi sviluppi frenetici di questa vicenda davvero complicata. Noi invece torniamo ad inizio settimana, ecco come si presentava la scena delle due regioni poi più calde, che sono il Lazio e la Lombardia. Torniamo a domenica e lunedì scorsi, sentiamo prima Elisabetta Fiorito e poi Fabio Pisano. Il pasticciaccio brutto delle liste elettorali nel Lazio sarebbe dovuto ad un ritardo nella consegna. Il PDL è senza candidati in provincia di Roma, la Corte d'Appello respinge l'istanza del centrodestra per una svista che rischia di far perdere addirittura le regionali. La candidata governatore del PDL nel Lazio, Renata Polverini, lancia un appello al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ho fatto appello al Capo dello Stato perché credo possa garantire le condizioni perché le elezioni nel Lazio si svolgano regolarmente. Non possiamo consentire che la burocrazia uccida la democrazia. E la Polverini annuncia una maratona oratoria a partire da oggi pomeriggio in piazza San Lorenzo e Lucina a Roma, mentre accusa i radicali di aver impedito al PDL di consegnare le liste. Le risponde la candidata del centro-sinistra nel Lazio, la radicale Emma Bonino. Mi auguro che dopo le leggi ad personam, già poco accettabili, poi non ci troviamo di fronte magari ad un provvedimento ad listam. 514 firme contestate per motivi che vanno dalla mancanza del timbro a quella della data e del luogo di autentica. Poche centinaia di nomi che però potrebbero costare la presenza sulle schede elettorali della Lombardia alla lista del presidente Roberto Formigoni, in carica dal giugno 1995. Oggi verrà presentato ricorso all'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello, come spiega fiduciosamente il presidente stesso. I difetti che sono stati riscontrati sono del tutto formali e sono stati tutti sanati da sentenze del Consiglio di Stato o del TAR. Abbiamo una documentazione alta così, non c'è nessunissima preoccupazione. Presentiamo ricorso, la Corte non potrà che prendere atto che il Consiglio di Stato fa legge. In attesa della decisione non risparmiano comunque frecciate i due rivali di Formigoni, Filippo Penati e Savino Pezzotta. Se hanno diritto a presentare la candidatura di Formigoni, benissimo, però senza cambiare le regole, senza dai pressioni indebite. Non è che mi rallegri se qualche competitore scompare per un fatto burocratico. Il problema vero è che probabilmente qualcuno dovrebbe riflettere su di sé. L'ho preannunciato prima delle notizie del traffico, mettiamo allora sul tavolo tutti gli elementi sensibili di questa settimana politica, ne manca ancora uno all'appello, perché lunedì il consiglio di amministrazione della RAI a maggioranza, però bisogna ricordarlo, con il voto contrario del presidente Galimberti, decide di sospendere, congelare per così dire i talk show politici, quindi Anno Zero, Porta a Porta, Ballarò e Ultima Parola per tutto marzo, cioè per tutto il mese della campagna elettorale fino al voto appunto del 28 e 29 marzo. Il vuoto e anche poi il danno economico dovrà essere colmato, si legge nel documento, ove possibile da tribune politiche, quelle vecchio stampo di una volta che sembravano ormai morte e sepolte. I giornalisti Rai non ci stanno, fanno le barricate, protestano e si mettono al seguito di quello che poi è uno straordinario tribuno naturale, ovvero Michele Santoro, e mettono in scena una plateale anche molto appassionata, accalorata protesta martedì sera davanti alla sede Rai di via Teulada, e succede quello che poi in realtà nessuno in fondo si aspettava, un vero colpo di teatro, perché sullo stesso palchetto, perché si trattava di un piccolo palco proprio appostato lì fuori sulla strada, ad arringare in modo peraltro molto diverso uno dall'altro la folla, appaiono, si appalesano i due nemici più famosi poi della televisione italiana di questi tempi, cioè Santoro da una parte e Vespa dall'altra. Sentiamo il racconto di questa giornata del tutto particolare, di questa serata, per meglio dire, fredda e particolare, firmato da Maria Chiara Grandis. Con tutto il rispetto, non è che se non parlano Vespa, Santoro e Floris è morta la libertà. È una bruttissima pagina questa, una pagina che non doveva accadere. C'era anche Bruno Vespa ieri sera sul palco in via Teulada di fronte alla sede RAI per la manifestazione organizzata dai sindacati dei giornalisti. Una protesta contro la decisione del Consiglio d'amministrazione della TV pubblica di sospendere i talk show politici per il mese delle elezioni regionali. Tutti insieme in difesa della libertà di stampa, abbandonando le divergenze dei giorni scorsi. Cambiare! 500 persone, politici dell'opposizione, Popolo Viola insieme ai conduttori delle trasmissioni cancellate, Michele Santoro per Anno Zero e Giovanni Floris per Ballarò. È una vicenda grottesca, un editore che cancella le proprie trasmissioni è l'ultimo capitolo. Facciamo una forma di protesta il 25 marzo, faremo una trasmissione e tutti quelli che potranno ritrasmetterla dove vorranno. In collegamento telefonico anche Gianluigi Paragone, che conduce L'Ultima Parola, interviene anche Lucia Annunziata, autosospesa per solidarietà. Per tutti, se la decisione non verrà revocata, queste elezioni saranno ricordate come il punto più basso toccato dalla RAI. Abbiamo messo in fila quelli che a me viene da chiamare controsensi di questa politica, di questa campagna elettorale, la storia delle liste escluse da un lato e la storia della par condicio dall'altro. Adesso proviamo così a fare un po' un'analisi, non posso dire a freddo perché la situazione è ancora molto, molto calda e molto in divenire, con Stefano Folli del Sole 24 Ore che è qui al mio fianco. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora Stefano, io preparando un po' questa ipotetica scaletta della nostra conversazione ero un po' in difficoltà perché francamente tra le due cose, la par condicio da una parte e le liste elettorali, non sapevo dove cominciare perché entrambe mi hanno scioccato in modo abbastanza clamoroso. Te personalmente delle due cos'è che ti ha spiazzato di più, insomma, se si può fare una classifica di demerito in questo caso? Sì, è difficile farla effettivamente, sono due cose diverse ma in qualche modo entrambe capaci di disorientare l'opinione pubblica, come in effetti è accaduto. Se noi vediamo gli indici del gradimento televisivo del programma che è andato in onda ieri sera proprio al posto di Anno Zero, vediamo che c'è stata una caduta proprio di questo share cosiddetto, segno che le persone, la gente si aspettavano dei programmi di approfondimento e hanno avuto invece altre cose, che però per il solo fatto di essere un film d'evasione o altro danno l'idea appunto che insomma fisica, proprio materiale, che plastica, che non si voglia parlare di temi che riguardano poi la vita di tutti, la politica in fondo è qualcosa che riguarda la vita di tutti i cittadini. Quindi questo è un aspetto. Lasciando poi il danno economico per l'azienda, certo, il danno dell'azienda per la RAI è enorme, certo, è un altro tema importante. Poi c'è la questione delle liste elettorali, che purtroppo è un vulnus in ogni caso, perché è un vulnus ai criteri di legalità di fondo che devono presiedere alla convivenza civile. Tutti i cittadini sono tenuti sempre a rispettare la legalità in infinite forme, anche i formalismi legali, no? Che adesso sono sotto accusa, ma i formalismi legali sono proprio quelli che poi in tanti casi avvelenano la vita dei cittadini. E non è accettabile che la politica e i politici non rispettino questi criteri. D'altra parte non si può nemmeno ammettere che non si possa andare a votare per in una importante regione come la Lombardia, per esempio, se manca uno schieramento, quindi è un problema molto serio. Ecco, tra l'altro restiamo sulle liste perché più che parlare appunto delle conseguenze poi di tutto quello che sta succedendo, perché ci sono anche dei ricorsi al TAR ancora in piedi, vorrei capire perché a tuo giudizio si è arrivati ad una situazione del genere, cioè siamo di fronte a faciloneria, a una certa magari arroganza anche di chi magari non crede neanche giusto, come dicevi tu, seguire le regole minime di presentazione delle liste, oppure sono cose che in fondo, che voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, sono sempre successe, però in questo momento storico, in questo clima particolare avvelenato in cui non si accetta neanche il minimo fair play, non si fa passare nulla e quindi si fa una guerra anche sulle liste elettorali da presentare al voto. Sì, anche la seconda cosa, c'è stato, diciamo, c'è una certa quasi illegalità nel sistema, se vogliamo anche legata a cose minori, ad aspetti minori, ma non tanto minori, perché insomma se si falsificano delle firme, se non si rispettano certi tempi previsti dalla legge, insomma non sono cose tanto minori. Ma indubbiamente in questo momento particolare, in cui si avverte nel paese un certo ritorno a una sensazione diffusa di non rispetto delle regole, non rispetto della legge, in questo momento particolare, con una politica e una magistratura sempre ai ferri corti, è chiaro che anche delle violazioni, tra virgolette, minori delle regole appaiono gravi e non giustificabili. Cosa che sta succedendo, che è successa, e davanti alla quale il sistema politico, secondo me, deve reagire con un supplemento di legalità, non dicendo chi se ne importa. Non tendendo a minimizzare. Bisogna dire, va benissimo, d'ora in poi rispetteremo con molto rigore, con un criterio svedese, se si può dire, i criteri di legalità. E quindi dovrebbe essere l'occasione per una maturazione del sistema politico, cosa che invece non è. Ci saranno, secondo te, a prescindere poi di quali liste poi troveremo in corsa, delle conseguenze al voto, magari una disaffezione, una disillusione di alcuni elettori? Non mi stupirei affatto, queste sono classiche cose che allontanano la gente dalle urne, che fanno dire in modo un po' qualunquistico, ma in fondo i politici sono tutti uguali. E certamente, quindi l'antipolitica potrebbe tornare. L'antipolitico o semplicemente un maggiore grado di assenteismo. Ecco, tra l'altro sulla storia delle liste ho notato una curiosa, poi forse non è neanche tanto curiosa, convergenza tra quello che tu hai scritto a metà settimana in prima pagina su Sole 24 Ore e quello che hai scritto su Libero Pansa, perché entrambi avete invocato il buonsenso per uscire da questo vicolo cieco. Però più che questa vostra convergenza vorrei un tuo commento su una cosa importante, secondo me, che ha detto Pansa, che ha scritto Pansa, che ha detto che il bordellume, ha usato questo termine molto efficace, non dice, non riguarda soltanto la parrocchia di Silvio Berlusconi, riguarda un po' tutti, perché alla fine le conseguenze di questo sfilacciamento, di questa scollatura, alla fine andrebbero su tutti, destra, sinistra e anche il popolo italiano. E addirittura lui ha tirato in ballo anche lo spettro di violenze, che è un po' anche un refren di Pansa. Concordo pienamente sul fatto che un decadimento complessivo della qualità democratica nella vita del paese riguarda tutti, non c'è una parte che può sentirsi, diciamo, al sicuro sollevata dal problema e scaricare tutto sulla parte avversa. Questo non è credibile, non si è mai dato nella storia. Quindi il decadimento riguarda tutti, riguarda proprio i criteri di base della nostra convivenza civile, quindi Pansa ha perfettamente ragione. E aggiungo che se ne esce però richiamandosi con più forza, non con meno forza, ai criteri di legalità, a quel rispetto delle regole che è una delle condizioni base della democrazia. Una battuta sulla par condicio. Io francamente credo che il problema sia a monte, sia lontanissimo, ed è la legge stessa della par condicio, perché a mio avviso rientra in quell'elenco di leggi dal 94 ad oggi fatte o a favore o contro un soggetto, ed è facile capire che sia. Detto questo, non si può a mio avviso giustificare la deriva, l'inasprimento dei provvedimenti di questi giorni, che anche qui sono fatti contro una persona, perché al di là dell'ipocrisia, insomma, il soggetto colpito dal provvedimento della RAI è Santoro e non zero. Poi per mascherarlo si è voluto colpire anche Vespa, Ballarò e via di questo passo. Tu come vedi questa questione, che tra l'altro sta trasformando Santoro, cosa che lui sa fare benissimo, poi in un martire della libertà e della verità di informazione? No, ma io penso che non ci debbano essere, se non alcune regole generali che presiedono la campagna elettorale, ma poi bisogna lasciare la massima libertà ai conduttori dei programmi televisivi di impostare i loro programmi come meglio credono, appunto all'interno di una cornice generale, ma questo c'è sempre stato, si è sempre dato una cornice generale nei periodi di campagna elettorale. E credo che faccia solo bene al pubblico poter assistere a dei programmi, se vogliamo anche faziosi, anche sanamente faziosi, dichiaratamente ma vivi, vitali, anche perché ce ne sono diversi di programmi, non hanno la stessa impronta, non hanno la stessa curvatura politica, e io credo che gli italiani siano abbastanza maturi per poter scegliere e stabilire con la loro testa che cosa vogliono vedere. Senza dimenticare che poi, a mio avviso, con questo provvedimento si arriva anche a degli esiti grotteschi, paradossali, anche furbescamente paradossali, perché per esempio io mercoledì sera ho seguito la trasmissione della 7 Tetris, che credo sia l'unico talk show in questo momento in piedi, in cui magari non si poteva dire la parola Berlusconi, quindi si parlava di presidente del Milan. E poi a un certo punto Lerner, a cui non difetta certo l'intelligenza, ha detto, beh, visto che non si possono nominare né candidati né politici, io dico viva Prodi, non essendo più un politico ma uomo comune. Quindi a volte si dà anche risonanza maggiore, ma gli effetti sono paradossali, ma a maggior ragione bisogna evitare il ridicolo, certo. Ecco, si potrà uscire dalla par condicio dopo questo precedente comunque incredibile? A me piacerebbe tanto che si prendesse esempio da quello che è successo in questi giorni e se vogliamo anche dal caos delle liste, perché in questo senso le due cose sono un po' apparentate, per fare un attimo una riflessione generale e per, come dire, ricondurre un po' alla ragione tutto il meccanismo democratico in questo paese, che esiste, perché io penso noi siamo una democrazia, però una democrazia che non deve aver paura di esserlo fino in fondo. Quindi magari le forze politiche prendessero spunto da quello che sta succedendo per voltare pagina. Purtroppo sono scettico, temo che non succederà. Abbiamo raccontato una settimana davvero particolare, davvero eccezionale nel panorama italiano. Chissà poi se nel futuro, anche immediato, potremo parlare invece di una politica normale, visto che ci sono anche delle elezioni importanti. Bisogna però segnalare, quindi ringraziando Stefano Folli per il contributo, bisogna però segnalare anche un altro passaggio chiave di questa settimana, ovvero le dimissioni del senatore Di Girolamo, che arrivano mercoledì. Naturalmente erano talmente fragorose le intercettazioni a suo carico, i sospetti di collusione con la malavita, i sotterfugi anche per crearsi ad arte una residenza all'estero, che francamente il senatore non poteva davvero fare diversamente. Questo il racconto di Alessandra Schepisi il GR delle 13 di mercoledì. Sì, buongiorno. Di Girolamo non è più senatore della Repubblica, da questo momento non gode più delle prerogative parlamentari e potrà essere arrestato. L'aula di Palazzo Madama ha dunque accolto le sue dimissioni, 259 voti a favore, 16 contrari, 12 astenuti. L'ex senatore è intervenuto in aula questa mattina ribadendo la propria estraneità ai fatti. Non sono un untore, dopo tanto fango credo che sia giunto il momento della verità dei fatti, ma sentiamo la sua voce. Non ho assolutamente portato all'interno di quest'aula l'indegnità dell''ndrangheta o della mafia, così come mi è stata scritta. Un dibattito che si è svolto in un clima di forte tensione, soprattutto quando al termine del suo intervento si sono levati gli applausi dal centrodestra, un gesto di solidarietà che non è piaciuto affatto all'opposizione. Sbalordita si è detta la capogruppo del PD al Senato Finocchiaro, ma il PD contesta anche il fatto che l'Aula si sia pronunciata solo sulle dimissioni e non anche sulla decadenza. Le dimissioni senza decadenza infatti comporteranno che Di Girolamo potrà continuare a godere di alcuni benefit previsti per i senatori al termine del loro mandato. Il PD aveva chiesto dunque di poter discutere una mozione che revocava l'ordine del giorno De Gregorio, che nel gennaio 2009 permise di congelare la decadenza del senatore, richiesta respinta da Schifani perché non all'ordine del giorno. Sentiamo a questo punto come ha reagito la Finocchiaro. Voi siete stati capaci di imprimere al nostro sistema una piccola politica sostenuta da un supremo disprezzo per le forme, i valori, gli strumenti, le regole repubblicane. E rientriamo con l'ottavo giorno dopo una buona metà di puntata densa e dedicata alle pulsioni, alle tensioni anche della politica, ma naturalmente non c'è soltanto questo nella settimana che vi stiamo raccontando. Cominciamo per esempio da una inchiesta chiave, cruciale, significativa non solo sul piano economico, che è quella che riguarda Fastweb, che poi in qualche modo è anche collegata alle vicende del senatore Di Girolamo, con la quale abbiamo chiuso la parte precedente del programma. Martedì è il giorno del primo interrogatorio del fondatore di Fastweb, Silvio Scaglia. I dettagli con Andrea Viali. Nessuna evasione fiscale da parte di Fastweb, nessuna responsabilità diretta sua o dei suoi collaboratori più stretti. Ha negato ogni addebito Silvio Scaglia, l'ex amministratore delegato e fondatore della società telefonica, arrestato giovedì scorso al suo rientro in Italia. Al GIP di Roma a Morgigni, che ieri lo ha sentito per la prima volta, Scaglia ha detto anche di non conoscere l'imprenditore Gennaro Mockbel e il senatore Nicola Di Girolamo, due dei personaggi chiave dell'inchiesta sul presunto maxi riciclaggio da 2 miliardi di euro. A riferirlo al termine dell'interrogatorio il suo legale, l'avvocato Pier Maria Corso. Confida che la sua posizione venga a essere riconosciuta per quello che lui ha sempre dichiarato, e cioè assoluta estraneità a qualunque illecito se esistente. Dopo aver sentito i legali di Fastweb e Telecom Italia Sparkle, il GIP ha anche deciso di prendere tempo fino a domani per valutare la richiesta di commissariamento avanzata dalla Procura per le due società coinvolte nell'inchiesta. Ieri si è poi costituito l'avvocato Paolo Colosimo, il penalista romano accusato di aver agito per favorire gli interessi dell''ndrangheta. Adesso diamo un po' di notizie economiche. Purtroppo, lo dico già in anticipo, devo dare spazio ad una serie di dati fortemente negativi, perché insomma la crisi c'è, si sente, viene ormai certificata un po' ovunque, sia in Italia che all'estero. Noi ci concentriamo adesso su casa nostra e quindi non è il caso di far finta di nulla. I conti impietosi li ha fatti Anna Marino martedì nel GR delle 7. È stata la peggior annata degli ultimi 40 anni, quella dell'anno scorso. La crescita economica è crollata del 5%. Solo un mese fa il governo aveva previsto una contrazione del 4,8%, colpiti a cascata tutti i settori. Servizi e agricoltura hanno tenuto, contenendo le perdite entro il 3%. Evidenti invece le flessioni per costruzione e industria. I cantieri hanno prodotto il 6,7% di ricchezza in meno rispetto al 2008, mentre per le fabbriche la discesa è stata addirittura del 15%. Va male anche il fronte dei conti pubblici. Il deficit, cioè la differenza tra quanto incassa e quanto spende lo Stato, è balzato al 5,3%, quasi il doppio rispetto al 2008. Brutti anche i dati sulla disoccupazione, ancora in salita all'8,6% a gennaio, mai così alta dal gennaio 2004, soprattutto quella giovanile. Restiamo sempre nell'ambito dell'economia e più specificatamente del mondo del lavoro, che è naturalmente un settore fondamentale per la vita anche sociale di un paese, di una nazione. Infatti in quest'ultima settimana, che è stata purtroppo soffocata dai calori e dalle tensioni della campagna elettorale, delle polemiche sulle liste e sulla par condicio, credo che in pochi si siano accorti invece di un disegno di legge che è stato varato al Senato mercoledì e che è molto significativo. Sentite perché in questo servizio di Valentina Furlanetto. Una tutela in più o un attacco ai lavoratori? L'approvazione in via definitiva da parte del Senato del disegno di legge collegato lavoro, che introduce anche l'arbitrato nelle controversie fra datori di lavoro e lavoratori, ha ricevuto un'accoglienza opposta. In pratica, il lavoratore licenziato senza giusta causa potrà ricorrere all'arbitrato, che potrà decidere secondo equità, vale a dire senza dover rispettare una serie di diritti difesi dalle leggi in vigore. Il ministro del lavoro Maurizio Sacconi. Più o meno questo testo era parte del disegno di legge cosiddetto Biagi, che poi proprio al Senato fu stralciato su richiesta delle organizzazioni sindacali di una più attenta considerazione. L'opposizione e la CGIL sono insorte. Il timore è che il giovane lavoratore al momento dell'assunzione accetti un accordo che prevede il ricorso all'arbitrato. Il vicepresidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, Tiziano Treu. Noi abbiamo sempre denunciato che questa norma è pericolosa e addirittura è sovversiva in senso tecnico di tutto il diritto del lavoro. E in questo spazio non possiamo certo ignorare invece una notizia che è finita, giustamente, direi in prima pagina su tutti i giornali di mercoledì. Leggo a caso da Repubblica un titolo di spalla: dall'Unione Europea via libera agli OGM. Ci spiega questo titolo e poi le sue possibili conseguenze Sergio Nava, che ha firmato la copertina di Radio 24 del GR delle 7 di mercoledì. Amflora divide l'Europa. Amflora è una patata transgenica prodotta dalla multinazionale BASF che passerà alla storia per aver messo fine dopo 12 anni alla moratoria di fatto sugli OGM in vigore nell'Unione Europea. Ieri la Commissione, dopo anni di studio e bracci di ferro interni, ha deciso di autorizzarne la coltivazione. Contemporaneamente ha autorizzato l'importazione e la trasformazione di 3 nuovi mais OGM. Immediata la bufera, che in poche ore ha riaperto il dibattito sugli organismi geneticamente modificati in Europa. L'Austria ha dichiarato di voler bandire la coltivazione di questa patata, anche se a capitanare la rivolta è stata soprattutto l'Italia, con il ministro dell'agricoltura Luca Zaia, che minaccia referendum popolari e a Radio 24 dichiara: consegnare gli OGM all'agricoltura vuol dire consegnare l'agricoltura alle multinazionali. Oggetto della contesa è un gene resistente agli antibiotici presente nella patata OGM Amflora, che ha fatto dubitare persino l'Agenzia Europea del Farmaco. In realtà il pericolo appare più simbolico che reale. La patata si potrà coltivare per produrre carta e, attraverso i suoi sottoprodotti, per alimentare gli animali. Difficilmente approderà in Italia, come afferma Paola Testoricoggi della Commissione Europea. I due paesi che hanno intenzione di coltivarlo sono la Germania e la Repubblica Ceca. E ricorda Bruxelles, ciascun paese può ricorrere alla clausola di salvaguardia per sbarrare le frontiere agli OGM. Ma la domanda resta: potrà Amflora contaminare anche le patate coltivate naturalmente? Ai posteri l'ardua risposta. Ed ora quella che è purtroppo la vera grande notizia della settimana. Siamo di fronte ad una tragedia immane, epocale. Sto parlando del terremoto che ha colpito il Cile sabato scorso. Cominciamo questo breve e tragico racconto proprio tornando indietro esattamente a 7 giorni fa, nelle ore praticamente in cui andavamo in onda con l'ottavo giorno. Infatti una delle prime dirette di Radio 24 è firmata da Stefano Totolo nel GR delle 10, proprio di sabato scorso. Sì, buongiorno. Un terremoto fortissimo, 8.8 gradi della scala Richter, è stato registrato alle 3.34 ora locale, 7.34 ora italiana, al largo della costa centrale cilena, a 300 km a sud della capitale Santiago. Immediatamente le autorità hanno lanciato l'allarme tsunami e il maremoto si è generato, stando a quanto riferisce il centro di allarme tsunami del Pacifico. Popolazioni in allerta dunque in Cile, Perù, Ecuador e poco fa anche il Giappone, colpito questa notte ma senza danni da un'altra scossa sismica, ha emesso l'allerta tsunami. Abbiamo contattato il professor Enzo Boschi, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci ha spiegato l'intensità di questo tsunami. Sentiamo. Adesso bisogna capire che entità ha questo, l'energia, cioè quanta energia si è trasferita dalla, diciamo così, dalla zona ipocentrale dove si è verificato il terremoto all'acqua, e da questo si vedrà anche quale sarà la violenza eventuale del maremoto, il quale si sta propagando con velocità dell'ordine di alcune centinaia di chilometri all'ora, e quindi arriverà adesso, non sono in grado di fare i conti, insomma arriverà presto sulle coste dell'oceano, anche dall'altra parte, diciamo così, dell'oceano rispetto al Sud America. Credo che tutte le precauzioni siano state prese, perché l'allarme è stato dato in maniera tempestiva e quindi probabilmente non dovrebbe avere effetti devastanti, almeno in termini di perdita di vite umane. Basta davvero pochissimo tempo per rendersi conto della gravità spaventosa del sisma, del terremoto. Infatti già nella giornata di domenica, quindi a neanche 24 ore dal sisma, le autorità cilene parlano di catastrofe senza precedenti. Ci spiega tutto da Santiago del Cile la corrispondenza di lunedì mattina dell'inviato di Radio 24 Emiliano Guanella. Un disastro senza precedenti, la macchina dei soccorsi che finalmente si mette in moto, ancora incognite per le regioni più disagiate. La Presidente Michelle Bachelet ha parlato senza mezzi termini di qualcosa di inedito e ha investito le forze armate del coordinamento delle operazioni di soccorso nelle due regioni più colpite del Maule e del Biobío. Concepción continua ad essere la città più critica, manca acqua e luce quasi ovunque, complicatissime le comunicazioni telefonico-satellitari. All'emergenza si aggiunge il problema dell'ordine pubblico. Ottenuto il permesso da parte del governo, scendono in strada i militari con pattugliamenti nelle zone più critiche e custodia fissa davanti ai supermercati per evitare nuovi saccheggi come quelli visti ieri durante tutta la giornata. Fissate anche le priorità per gli aiuti umanitari, ospedali da campo, gruppi elettrogeni, squadre specializzate in riscatto. Anche se le ore passano e come sempre accade, la speranza di incontrare gente viva sotto le macerie si fa sempre più debole. Ci vorrà davvero molto per rivedere in piedi il Cile, anche se è un paese straordinario, orgoglioso, che ha passato peraltro momenti in modo diverso difficilissimi e terribili. Facciamo naturalmente un in bocca al lupo alla popolazione cilena, dove stanno arrivando anche gli aiuti umanitari, soprattutto dal vicino Messico, mentre segnalo che da domani ci saranno 3 giorni di lutto nazionale nel paese. Tra l'altro mi ha fatto riflettere questo terremoto in Cile, perché molti, forse anch'io, hanno la percezione che queste catastrofi siano più frequenti che in passato. Non so se sia colpa o merito dei mezzi di comunicazione che ci sparano questi avvenimenti subito, nell'immediato, sia su internet che sui giornali, oppure c'è in realtà una responsabilità umana che da un lato magari costruisce dove non dovrebbe in modo sbagliato, pensiamo anche a quello che è successo purtroppo nella nostra Aquila, nel nostro Abruzzo, oppure l'uomo stravolge il clima creando poi dei dissesti ambientali come catastrofi diverse naturalmente dai terremoti. Per esempio anche la Francia in questi giorni, esattamente nello scorso weekend, ha pagato un conto salatissimo per una vicenda legata agli stravolgimenti del clima. Da Parigi, Igor Fiatti. C'est donc une catastrophe nationale. È una catastrofe nazionale. Presentando le condoglianze alle famiglie delle vittime, il premier francese François Fillon ha definito così il passaggio della tempesta Xynthia in Francia. E mentre la tempesta ha lasciato il territorio francese alla volta della Germania, per le autorità transalpine è già il momento di fare i conti con il pesante bilancio delle vittime e dei danni. Le regioni più colpite sono state la Charente-Maritime e la Vandea, dove il vento ha raggiunto i 150 km all'ora. Le violentissime raffiche, le forti maree, le piogge torrenziali hanno provocato inondazioni, rotture di dighe e oltre 500.000 case sono tuttora senza elettricità. Caos anche nei trasporti, con gravi disagi, soprattutto nel traffico ferroviario. Ultimi minuti insieme con l'ottavo giorno. Ho un carissimo ospite che è qui al mio fianco in un avvicendamento di pochi minuti con Stefano Folli, Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Allora, è giusto fare una premessa, perché io ho invitato Marroni qualche giorno fa, esattamente martedì, quando c'è stata la decisione di Strasburgo che ha accolto il ricorso dell'Italia sulla sentenza che obbligava invece il nostro paese a togliere il crocifisso dalle scuole. Sembra contorta questa cosa che ho detto, ma in realtà è più chiara di quello che appunto è, e sembra, però la cronaca degli ultimi giorni, direi anche delle ultime ore, ci costringe inevitabilmente a cambiare scaletta, perché ci troviamo con il Vaticano spinto in un vortice, non dico altro, che però non si può appunto ignorare, e da cui appunto dobbiamo per forza partire, perché metto soltanto in fila le cose che sono successe negli ultimi giorni. Ci troviamo di fronte alle ultime intercettazioni di Angelo Balducci, il presidente l'ex presidente ormai del Consiglio dei Lavori Pubblici, che è stato arrestato nell'inchiesta sul G8 della Maddalena, e queste intercettazioni tirano dentro ambienti vaticani. Poi dalla stessa inchiesta abbiamo scoperto che i fondi neri di Diego Anemone, che è poi l'imprenditore che con lo stesso Balducci faceva affari più o meno leciti, erano gestiti da un sacerdote, Don Evaldo Biasini, che è economo della congregazione dei missionari del preziosissimo sangue di Gesù. E ieri poi c'è stata la notizia di nuovi scandali sessuali in Germania, si va a Ratisbona e si va addirittura a sfiorare, almeno a livello di immagine, Georg Ratzinger, che poi è fratello di Benedetto XVI, quindi veramente siamo di fronte ad un groviglio complicatissimo. Adesso ci fermiamo un attimo, riascoltiamo il servizio di giovedì mattina di Valentina Furlanetto e poi cerchiamo di mettere un po' d'ordine con Carlo Marroni. È durato circa 4 ore l'interrogatorio di Angelo Balducci, l'ex numero 1 del Consiglio dei Lavori Pubblici della Protezione Civile, arrestato il 10 febbraio scorso. Il suo avvocato ha riferito che Balducci, davanti al GIP di Perugia, ha respinto le accuse. Il legale ha anche definito una vergogna la pubblicazione da parte della stampa di un capitolo dell'informativa dei Carabinieri in cui si collega Balducci al racket della prostituzione maschile. A questo proposito, il Vaticano ha allontanato il corista nigeriano della Cappella Giulia di San Pietro, Kinedu Thomas Eyem, indicato nelle intercettazioni quale procacciatore di incontri omosessuali per Balducci. Intanto Nicolò Pollari, ex direttore del SISMI, nega di aver mai incontrato l'ex numero uno del Consiglio dei Lavori Pubblici. Sentiti a Perugia anche Riccardo Fusi e Mauro Della Giovanpaola, mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere l'imprenditore romano Diego Anemone. Fabio De Santis è stato ascoltato a Milano. Visto che spesso la realtà supera la fantasia, voglio segnalare un dettaglio incredibile che riguarda Balducci, che si trova in prigione a Regina Coeli e praticamente è compagno di cella di Aurelio Giunta, che è un altro indagato eccellente di Fastweb, e quindi questa incredibile convivenza in carcere. Tra l'altro Balducci ha reclamato una cella da solo, dicendo anche che sia lui che Giunta sono abbastanza corpulenti, quindi poveri loro, insomma, fanno anche fatica in una cella 3x2. Però questo è un dettaglio di cronaca che però è a suo modo chiaro, insomma, è esemplificativo. Vorrei invece con Carlo Marroni tornare su questo groviglio di cui parlavo prima del servizio, che sta attanagliando almeno a livello di immagine la Chiesa. Vorrei cercare di mettere un po' d'ordine, anche perché poi Balducci era anche stato nominato gentiluomo di Sua Santità, quindi aveva una carica onorifica ma importante, simbolica, che ulteriormente imbarazza il Vaticano. Beh sì, questa vicenda in questi giorni sta fortemente imbarazzando all'interno, da quanto ho sentito io in questi giorni, insomma, le persone che conosco all'interno della Santa Sede c'è un grande imbarazzo, soprattutto perché non si conosce anche l'entità della questione. Si cerca in qualche modo di fare repulisti, questa è la parola che ci è stata anche riferita da quelli di noi. Scusate, ma questo repulisti stenta in qualche modo a venire perché non si conosce la dimensione del fenomeno. Ora, ci sono due vicende di cui hai parlato che si intrecciano: una vicenda italiana che riguarda un corista, quindi sommato una figura minore, con un personaggio, Balducci, che è gentiluomo di Sua Santità, è una cosa, una carica onorifica importante, però ecco, diciamo così, non espone la curia in quanto direttamente, mentre gli scandali della pedofilia che stanno emergendo sempre più gravemente in tutto il mondo, questo sì che è l'onda nera che sta travolgendo la Chiesa. Questo è un tra l'altro nel periodo in cui Ratzinger, per esempio, mostra la mano pesante sull'Irlanda, che è poi forse il focolaio più preoccupante. Mostra la mano pesante che evidentemente non è sufficientemente pesante. Allora, qui stiamo parlando naturalmente di casi molto vecchi, degli anni 50, per la precisione, casi, un periodo in cui il fratello del Papa, Monsignor Georg Ratzinger, non era ancora direttore del coro di Ratisbona. Questo non è per fare sempre la difesa d'ufficio delle persone importanti, ma è per onore. Però sai meglio di me, da giornalista, che poi i titoli di giornale vanno a parlare su no, quello, certamente, cioè, no, ma mettono era Georg Ratzinger in prima pagina, il fratello del Papa. Ma infatti lui ha detto che non c'entro niente, però è quello. E peraltro Ratisbona è un luogo simbolo. Ratzinger lì ha insegnato, lì si è laureato, Georg Ratzinger ha fatto lì un famoso discorso da Papa pochi anni fa. E quello fu un'altra pagina, altro, diciamo così. Qualcuno dice scivolone. Scivolone grave. Comunque sia, al di là di Ratisbona è proprio il cuore del ratzingerismo in senso buono, lì che ha studiato, lì che, e quindi non può non travolgerlo anche dal punto di vista dell'immagine. Questo, peraltro, il vescovo che ha denunciato questi casi di pedofilia Vescovo Müller aveva incontrato non molto tempo fa il Papa, credo un mese fa, per altre questioni naturalmente, e ha messo sul sito della diocesi l'informazione sui casi di pedofilia, facendo scoppiare un caso dove già in Germania da circa 15-20 giorni altri casi erano stati resi noti di pedofilia gravissimi a Berlino, a Bonn, in una cattedrale, in un'abbazia, scusate, dove peraltro il Papa ha mandato un commissario che si chiama visitatore apostolico in diritto canonico. Cioè la Chiesa tedesca sta veramente vivendo un periodo difficilissimo, come aveva vissuto quella americana qualche anno fa, quella australiana, quella irlandese, anche quella italiana. Cioè, stanno venendo un po' al pettine i nodi. Diciamo che la questione è questa, è veramente la questione ormai sembra chiave. Quando Ratzinger disse nel 2005, poco prima di essere eletto, quanta sporcizia c'è nella Chiesa, questa frase che via via torna raccontata nelle cronache, evidentemente sa di cosa parla. Cerca lui, questo gli va dato atto, rispetto al precedente Papa, che è un santo, lo sarà a breve, è stato un Papa straordinario, ma Ratzinger su questo ha la mano più ferma, più diretto, è più diretto, più duro, molto più caustico, duro. Certo, ma io percepisco un problema secondo me per la Chiesa, perché anche così, percependo la vulgata popolare della gente comune, tra tutte queste notizie che magari in maniera anche un po' confusa però vengono messe una in fila all'altra, corruzioni, pedofilia e quant'altro, si sta creando secondo me una cappa di fumo anche un po' inquietante attorno comunque all'istituto del clero, del Vaticano, soprattutto quindi delle alte gerarchie ecclesiastiche. Quindi la Chiesa secondo te che cosa rischia e che cosa deve fare per non cadere poi in questo vortice? La Chiesa deve prendere veramente di petto queste questioni. Faccio un esempio: se un vescovo sa di un sacerdote che ha, ma questa è un'opinione, ma mi auguro che così avverrà per tutti noi che viviamo in questa società, scopre che c'è un sacerdote che si è macchiato di pedofilia o cose simili, non lo deve trasferire, lo deve denunciare alla magistratura, deve chiamare i carabinieri. È così che si fa, così avrebbe più trasparenza, più nettezza. Sì, perché è chiaro, se no, se continui a trasferirlo, quello poi va dall'altra parte e ricomincia, anzi trova terreno fertile per ricominciare da capo. Questo è quello che è accaduto, non sempre. Alcuni vescovi sono stati molto bravi, molto risoluti, altri molto meno, e difatti ne hanno pagato le conseguenze, ma soprattutto ne pagano le conseguenze le vittime. Però tu vedi una linea di politica perlomeno che sta andando, sì, in una certa direzione. Sta andando in un irrigidimento, secondo quello che sembra, non così ancora forte, ma forse il caso Germania sarà insomma lo spartiacque nuovo. Il 12, cioè settimana prossima, il Papa riceve il presidente dei vescovi tedeschi, il presidente della CEI tedesca. È una visita già programmata o in parte? Ma no, di fatto no. In questi sì, giorni, no, in nel senso ore. Hanno deciso in queste ore, perché c'è stato un summit dei vescovi tedeschi dopo gli scandali di qualche giorno fa. Dopo questo, che sarà quello che segnerà veramente lo spartiacque, secondo quello che si percepisce, anche perché non sono coinvolti, ma si sfiora appunto anche la figura della famiglia del Papa, che in quella città viveva. Non c'entrano niente, ma si sfiora. Ecco, e veniamo adesso alla questione del crocifisso, che doveva essere il nostro punto di partenza, naturalmente travolta dalle cronache di questi giorni è diventata marginale. Non dico altro, non aggiungo nulla, perché è esauriente questo servizio di metà settimana firmato da Anna Maria D'Ambrosio, che spiega tutto. Vivo compiacimento del ministro Frattini per l'accoglimento del ricorso presentato dall'Italia a Strasburgo contro la sentenza che aveva bocciato il 3 novembre scorso la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. Il caso sarà ora esaminato dalla Grande Camera nei prossimi mesi, che deciderà a maggioranza e con sentenza definitiva vincolante per gli stati convenuti interessati. Il caso era stato sollevato da una cittadina italiana originaria della Finlandia e socia dell'Unione Atei e Agnostici Razionalisti. Nel 2002 la donna aveva chiesto all'Istituto Statale Vittorino da Feltre di Abano Terme in provincia di Padova, frequentato dai suoi due figli, di togliere i crocifissi. Contestava un'ingerenza dello Stato nella libertà di pensiero e di religione. Era naturalmente Anna Rita D'Ambrosio, ho sbagliato ad annunciare la collega e me ne scuso. Veniamo invece alla questione del crocifisso. Noi tra l'altro, Carlo, ci ritroviamo qualche mese dopo, perché a novembre commentammo insieme la decisione di Strasburgo, che a suo tempo invece obbligava l'Italia a togliere i crocifissi dalle scuole, ed entrambi eravamo contrari a quella scelta. Per fortuna sul crocifisso non dobbiamo seguire le ferre regole della par condicio, quindi possiamo essere tutti e due dalla stessa parte. Naturalmente chi da casa ci ascolta può naturalmente scrivere all'ottavo giorno @radio24.it e dire la sua. Io sono pronto a proseguire la conversazione con chi magari ha opinioni diverse anche via mail. Invece, brevemente, in 30 secondi da te, Carlo, vorrei così una morale finale di questa storia, se poi di fatto c'è una logica tra la decisione di novembre e quella di questi giorni. I burocrati di Bruxelles, anzi di Strasburgo, scusate, hanno applicato un principio di libertà che, a mio avviso, la libertà religiosa non significa cancellare la religione, perché sennò, anzi, a quel punto è la negazione della libertà. cioè nessuna religione perché tutti siano, come dire, par condicio in quel senso, ecco, non va bene per noi, non va bene per nessuno, non ci vuole una, come dire, un estremismo anche nella laicità, diciamo, ecco. Ecco, io adesso magari mi attirerò le ire di qualche ascoltatore, voglio leggere come conclusione di questa nostra conversazione poche righe di un editoriale del Foglio di qualche giorno fa, esattamente di mercoledì, che commentava proprio la scelta ultima di Strasburgo in riferimento alla decisione di novembre, e così scriveva: si tratta di una inversione del principio di libertà che viene trasformato in un diritto a vietare ad altri di esercitare la loro libertà, naturalmente. Sottoscrivi? Sottoscrivo. Sottoscrivi. Benissimo. Su questa sottoscrizione di Carlo Marroni ci fermiamo. Grazie che ci ha ascoltato. Noi ci ritroviamo la settimana prossima alle 9 e naturalmente ringrazio anche il nostro regista Alessandro Chiappini, che già mi guarda male dall'altra parte del vetro. È davvero tutto. A sabato prossimo.